Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, un'altra settimana di questa nuova realtà che stiamo vivendo, un'altra domenica da dedicare, se volete, a viaggi virtuali, racconti della nostra Italia, alla scoperta di posti nuovi o conosciuti solo di sfuggita, per sentito dire, il sommario. Questa settimana andiamo a conoscere Volpedo, piccolo comune in provincia di Alessandria, dove le tracce di Pellizza sono ben più che visibili. Poi scendiamo in Umbria e ci fermiamo ad Assisi per entrare nella Basilica. E poi qualche consiglio su come vivere la cucina, le relazioni e le prossime, speriamo molto prossime, camminate. Volpedo conta poco più di 1100 anime, la sua fama è legata a doppio filo al pittore Pellizza e dunque andare a Volpedo è un modo per mescolare arte, architettura e anche cucina. Il perché ce lo racconta, ormai di casa, qui a Globetrotter da qualche settimana, la nostra amica architetto Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Ciao Olivia, buon pomeriggio, ben ritrovata. Ciao Valeria, buon pomeriggio, come stai? Ce la caviamo, dai Olivia, andiamo avanti come tutti. Ce la stiamo cavando tutti o stiamo cercando di cavarcela tutti? Allora Olivia, questo pomeriggio un altro tema, un'altra perla. Questa volta partiamo da un quadro e poi arriviamo a un luogo. Comincia tu. Allora, questa volta è un itinerario strano, Valeria. Come hai detto tu, parte da un quadro famoso, costeggia delle mura spagnole e arriva a delle buonissime pesche, quindi è davvero un itinerario strano. Il quadro è un quadro che io amo molto, che in molti amiamo, ed è il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Credo che tutti l'abbiamo visto almeno una volta, o dal vero, adesso è al museo, esposto al Museo del Novecento di Milano ed è tra l'altro la prima opera esposta del museo, oppure l'abbiamo visto in forma di riproduzione, miliardi di magliette, poster e quant'altro. Ma non sono certa che tante persone invece abbiano visitato Volpedo e quindi questa è l'occasione per farlo. È un paesino in provincia di Alessandria, a una settantina di chilometri da Milano ed è in realtà un vero e proprio percorso attraverso l'opera di questo straordinario pittore. Pellizza è vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Ha iniziato il suo percorso come pittore divisionista ed è poi diventato, diciamo, più famoso quando è approdato alla corrente della pittura sociale. E il quarto stato è la sua rappresentazione più famosa e secondo me anche la più bella. Pellizza era legatissimo a Volpedo. Nel periodo divisionista ha passato il tempo a ritrarne gli angoli più suggestivi del paese e della campagna intorno. Nel periodo politico si è dedicato a ritrarre i suoi abitanti. Nel quarto stato, Valeria, ad esempio, le figure in primo piano, quelle che sono una specie di cuneo che marcia verso l'osservatore, sono in realtà tutti compaesani di Pellizza. Erano contadini, artigiani, lavoratori di Volpedo che lui ha fatto posare come modelli e che ha usato come rappresentazione del cammino della classe operaia verso un presunto futuro di riconoscimento e di riscatto. Quindi il legame di Pellizza con Volpedo è stato fortissimo, ma oggi è fortissimo il legame di Volpedo con Pellizza, perché c'è una cosa straordinaria in questo paese: tutto il paesino e tutti i suoi immediati dintorni sono praticamente costellati di riproduzioni delle principali tele di Pellizza. Quindi la cosa bellissima è che queste riproduzioni sono collocate esattamente nei luoghi che Pellizza aveva ritratto nella tela. Quindi l'effetto è particolarissimo. Tu stai guardando, non lo so, una piazzetta, un palazzo, una collina e contemporaneamente vedi quella stessa piazzetta, quello stesso palazzo, quella stessa collina per come li aveva visti e ritratti Pellizza. Quindi l'intreccio è, come dire, strettissimo. È strettissimo e quindi tu sei alle prese con l'osservazione di uno stesso punto in una versione pittorica e in una versione reale. Bisogna davvero provarlo perché è una cosa, è una cosa particolarissima. Volpedo poi è davvero un paese piccino e ancora oggi ha mantenuto fortunatamente la struttura più o meno e l'aspetto più o meno che aveva nel Novecento quando c'era Pelizza. In sostanza basta attraversarlo a piedi per essere immersi in una specie di galleria dal vivo e a cielo aperto di tutte le più belle opere di Pelizza. Questo già di per sé merita una visita. Poi c'è una cosa secondo me meravigliosa, della quale io sono assolutamente innamorata, che è al margine del paese ed è lo studio di Pelizza, perfettamente conservato e visitabile da parte del pubblico. È un luogo che ha un'atmosfera unica. Tu entri e la prima cosa che ti colpisce è, secondo me, la luce e la tonalità delle pareti. Le pareti sono scure perché in epoca tardo ottocentesca gli atelier dei pittori erano sempre dipinti di colori scuri e c'è questa luce straordinaria perché lo studio è alto 5 metri e mezzo e ha in cima sul soffitto un enorme lucernario da cui spiove la luce verticalmente che permetteva al pittore di dipingere sempre in condizioni di luce naturale, per cui l'impressione è proprio di essere avvolti dalla luce entrando. Ma poi si viene portati via da mille cose da vedere, perché ci sono prove di colore, gessi, tele, bozzetti, pezzi di stoffa con dei dipinti appena accennati, ci sono disegni, ci sono autoritratti, insomma c'è il mondo di Pelizza che in qualche modo ti avvolge. Entri in questo studio e hai la sensazione di dover parlare a bassa voce, di restare in ascolto perché quel luogo sembra essere in grado di raccontarti il pittore, di raccontarti il suo tempo, di raccontarti il suo modo di sentire. E poi c'è ancora di più perché questo paesino piccolo davvero riserva delle sorprese incredibili, perché c'è un'installazione multimediale espressamente dedicata al quarto stato e che è fatta per rendere comprensibile ed emozionale, molto emozionale, anche a chi non ha delle competenze specifiche, l'opera nel suo complesso. E poi c'è un museo didattico che ha una serie di pannelli esplicativi, di fotografie, di documenti e che ripercorre un po' tutta la vita e tutta l'opera di Pelizza. Poi ci sono le famose mura spagnole che ti avevo citato all'inizio, che proprio per volontà di Pelizza si sono salvate perché stavano cadendo in rovina e lui, essendo così legato al suo territorio, al suo paese, ha fatto in modo che venissero restaurate e consolidate. E ci sono poi le pesche. E qui torniamo e qui ritorniamo al punto di partenza, quindi c'è anche esatto. L'aspetto culinario. C'è l'aspetto culinario perché le pesche di Volpedo sono un prodotto famoso, una varietà tra l'altro molto antica che è stata poi ripresa, famosissimo, pregiatissimo e devo dirti Valeria, davvero buonissimo. Per cui la visita può essere architettonica perché c'è anche una meravigliosa pieve romanica che risale a prima dell'anno 1000, pittorica, politica perché c'è tutto il discorso del quarto stato, e anche gastronomica, che male non fa. Molto spesso abbiamo parlato di cammini qui a Globetrotter, spesso lo abbiamo fatto assieme a Maurizio Baldini, l'anima di Tra Terra e Cielo. Questa volta ho chiamato Maurizio perché con lui parliamo dell'importanza del camminare, del mangiare e dell'amare. In una chiacchierata che, passando per Ippocrate, i livelli di cortisolo nel sangue, ci accarezza in questa quarantena. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Buongiorno Valeria. Con te oggi, che di solito ci parli di cammini per il nostro bellissimo paese, con te oggi facciamo proprio dei viaggi alternativi, perché parliamo di ambiti che possono essere percorsi nelle nostre case. molto bene, c'è un sacco di cose che si possono fare a casa. Allora, stiamo scoprendo un po' tutti. Siamo un po' costretti a scoprirle queste cose che si possono fare in casa. Senti Maurizio, con te partirei dalla cucina. Non perché voglio spingere gli ascoltatori a cucinare chissà che cosa, anche perché alla fine di tutta questa avventura credo che più o meno tutti avremmo preso dei chili in più, ma perché la cucina può avere un effetto benefico, anzi quasi sempre ha un effetto benefico sul nostro sistema immunitario. Assolutamente sì, io credo che anche se questi periodi sembra che vada molto di moda il cibo portato a casa perché non abbiamo più tempo, invece mi sembra una buona occasione, visto che abbiamo più tempo per noi, mi sembra un'ottima occasione per ricominciare a cucinare. Insomma, io credo che nella cucina poi, come diceva già Ippocrate, nel cibo sta la sua salute, e quindi fare cucinare prodotti sani, naturali, non industriali, non con additivi chimici, è un buon modo per vivere in salute. Diciamo più che altro è una filosofia quella di vivere la cucina come qualcosa che può aiutare il nostro fisico. Esatto, è una filosofia. Intanto dà attenzione a noi stessi, al nostro fare, al nostro quotidiano, alla scelta del cibo, indipendentemente da quel cibo, da quel cibo è. Conto è prendere un prodotto fresco dal macellaio, dall'ortolano, dal negozio alimentare e cucinarselo, un conto è prendere un pacchetto già pronto che comunque sia, quanto naturale e verde viene promosso, ha sempre additivi, ha sempre conservanti, c'è sempre un tempo da quando viene confezionato e quando lo mangi, a differenza un conto è mangiarsi una zuppa fumante che è appena uscita dal fornello. Fare una cucina personale vuol dire mangiare un prodotto vivo. Oltre al capitolo cucina che in questi giorni possiamo ampiamente aprire e affrontare nelle nostre case, c'è anche quello delle relazioni, perché potrebbe sembrare un controsenso, visto che siamo costretti o comunque ci viene richiesto di restare a casa e di non avere contatti con altre persone, è un momento in cui abbiamo più tempo a disposizione e possiamo riflettere su quelle che sono davvero le nostre relazioni e la qualità delle nostre relazioni. Assolutamente sì, insomma il motto principale di Vita Terra e Cielo dopo 40 anni di vita è camminare, mangiare bene, avere delle buone relazioni, e proprio in questi tempi che pur non potendoci muovere abbiamo tutti gli strumenti per comunicare, per parlare, per vederci, tutti i gruppi di camminatori, di vacanzieri che sono creati durante i cammini fatti in questo periodo si sono tutti rivitalizzati postando foto e ricordi delle vacanze di un anno fa, del viaggio in Marocco di 2 anni fa. Ecco, quindi le possibilità tecnologiche ci sono. Non c'è l'abbraccio, non c'è contatto diretto, però c'è la parola, c'è la visione, anche la visione indiretta, appunto con strumenti come Skype o WhatsApp. Quindi direi che abbiamo tempo e la possibilità di sviluppare relazioni, riallacciare magari delle relazioni un po' sopite perché mancanza di tempo. E diciamo ovviamente che anche questo capitolo fa parte di tutte quelle cose che ci aiutano ad avere un sistema immunitario, diciamo, complessivo più forte, nel senso che delle buone relazioni ci rendono più forti in molti casi. Esatto, è importante, credo, anche in questi periodi, insomma, cercare di tirar fuori il buono che c'è sempre in qualunque situazione, buono che ci può essere in queste relazioni, appunto di magari curare relazioni che si sono un po' perse così per distrazione o per fatica e trovarne anche di nuove, tipo magari vicino di pianerottolo con cui non avrei mai il tempo di dire buongiorno e buonasera, che magari scopri che può essere una persona interessante. Avere uno spirito attivo, positivo, è un ottimo modo per affrontare i nemici di qualunque genere, virus compreso. Senti Maurizio, arriviamo all'ultimo capitolo, anche se sarebbe il primo, no, del motto Walk It Love. Camminare. In questo momento non possiamo, però possiamo anche, come dire, prepararci, quindi studiare qualcosa che ha a che fare con il camminare, per sapere che anche questo può essere d'aiuto al nostro sistema immunitario nella misura in cui ci rende persone più positive. Assolutamente sì, questo periodo di riposo può essere un'occasione per il progetto, insomma, non il terra e cielo, progettiamo in questi giorni i nuovi cammini da fare per l'estate, mettiamo a punto i dettagli e per ognuno di noi può essere l'occasione per programmare una vacanza quando tutto questo sarà finito. Il progetto, cioè cercare di distogliere un po' la mente dall'informazione coronavirus onnipresente per ogni mezzo di informazione e puntare la nostra attenzione sul dopo, insomma su quello che faremo dopo, che oltre a invadere bar e ristoranti potremo anche tornare a camminare in gruppo. Vorrei che tu mi parlassi in particolare proprio di questa esperienza del camminare nei boschi. Camminare nei boschi è un'esperienza che nasce così culturalmente e scientificamente in Giappone, dove si è sviluppata in anni recenti una medicina della foresta, perché appunto hanno scoperto e sperimentato che camminare nella foresta ci sono delle sostanze che vengono assorbite dal nostro organismo, i monoterpeni, che stimolano positivamente le difese immunitarie e riducono i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress del sangue. Quindi avere un bosco a portata di mano e poterlo frequentare regolarmente è una buona terapia che, insieme al movimento che fa il corpo, insomma, migliora il nostro umore, la nostra circolazione, la nostra salute mentale e in particolare anche le nostre difese immunitarie. Ci fermiamo solo per qualche istante, restate con noi. Globetrotter 24. Dolce sentire come. Riprendiamo le fila del discorso per arrivare in Umbria, ad Assisi, ed entrare in una delle basiliche più belle del nostro paese, dove l'architettura, la storia, la fede e l'arte sono avvolte in un intreccio indissolubile. I padri francescani hanno deciso di condividere il percorso attraverso un video disponibile sul sito sanfrancescoassisi.org. Ci accompagna Padre Enzo. Sorella Rete, permettimela di chiamare così, sorella Rete che ci sta offrendo la sua vera vocazione, come del resto i social, la vocazione di trasmettere partecipazione, cose positive, la possibilità poi di vedersi concretamente. Noi abbiamo attivato tre iniziative sostanzialmente. La prima è tutta spirituale e riguarda la webcam sulla tomba di San Francesco, con migliaia e migliaia di preghiere che stanno arrivando da tutto il mondo, con gente che ha la possibilità di affacciarsi sulla tomba di San Francesco e pregare. La seconda iniziativa è un numero verde per le persone che vogliono un aiuto, desiderano una parola, desiderano confrontarsi, prigionare e comunicare la propria ansia, la propria angoscia, la propria speranza. E il numero verde che possono trovare sul nostro sito sanfrancesco.org. La terza iniziativa invece riguarda l'aspetto culturale, cioè Assisi è polo spirituale, faro spirituale, ma anche faro culturale. Qui c'è la rinascita, l'inizio della cultura italiana e anche della lingua italiana con il codice 338, il cantico delle creature, Frate Sole, incipit della lingua italiana per comprenderci, ma anche un inno alla vita di San Francesco e poi il primo film a colori sul santo di Assisi, affrescato da Giotto, da Cimabue, da Simone Martin, da Lorenzetti, tra la Basilica Superiore e la Basilica Inferiore. E credo che tutto questo possa essere un'occasione in questo momento che si sta a casa di guardarlo e poi sperimentarlo. Allora un tour virtuale nella Basilica di San Francesco, un tour virtuale che permetta di guardare da vicino e di passeggiare nella Basilica di San Francesco. Credo che questo sia un bel momento da offrire chi sta a casa in questo momento. È un'occasione per rifarsi in qualche modo gli occhi pur stando seduti sul proprio divano di casa. Ci vuole raccontare brevemente questo tour virtuale? Ci vuole accompagnare anche solo con l'immaginazione in alcuni di questi passaggi? Trovate subito 792 anni di storia, 10.000 metri quadrati di affreschi e soprattutto trovate questa storia, la storia a colori del Santo di Assisi. E c'è il primo ciclo, che è di Giotto, anche quello superiore, che riguarda la vita di San Francesco. E poi i due cicli sovrapposti, sempre in Basilica Superiore, che sono Antico e Nuovo Testamento. Per chi entra in Basilica, chi entra in questo tour, si accorge subito della maestosità, dei colori, della luce, perché il pellegrino era invitato a celebrare la gloria di Francesco, la gioia di Francesco, la resurrezione, era chiamato ad elevarsi. In fondo, chi si confronta con San Francesco si confronta con i valori più profondi che sgorgano dal cuore dell'uomo. Ed è possibile soffermarsi su ogni affresco, leggere addirittura la scritta, la dicitura che c'è sotto ogni affresco, che dice la storia di quel racconto. Lì è Giotto, un cantiere, è stato il più grande cantiere del 1200, è stato quel cantiere che è diventato rosa dei venti, non solo per l'Italia ma per l'Europa, e il cantiere viene chiamato del Rinascimento. E possono anche scorgere, guardando in alto, quelle che sono le parti mancanti, cioè ferite dal terremoto del 1997. Quindi è possibile poi, cliccando lentamente, questa immagine si allarga, si dilata e si possono vedere dettagli e particolari che ad un occhio nudo forse non è possibile per la stessa della Basilica. Ci ha dato il cielo e le chiare. E accorgersi come all'ingresso della Basilica, appena si entra guardando in alto, sono stati ricomposti alcuni affreschi, non tutti, perché poi quelli iniziali che sono stati persi appena si entra erano di Giotto, mentre Cimabue, camminando, attraversando l'intera navata della Basilica, sono quelli di Cimabue, gli evangelisti che stanno sulla Basilica, sull'altare della Basilica Superiore, e manca quello che vedrete, un corpo grigio, insomma, abbondante, e un altro, sono le due vele crollate sull'altare, che predomina il marroncino, perché Cimabue usa pochi colori, mentre Giotto ne ha adoperati di più in Basilica Superiore, e quindi è stato più difficile la ricomposizione dei frammenti. Questo è quello che vedranno entrando in Basilica attraverso il tour virtuale. E poi sì, ci si può mettere lentamente e scorgere, anche se avete i figli a casa, i nipotini, è possibile spiegargli la storia di San Francesco. Perché, e qui un altro dettaglio, questa storia viene chiamata anche la Bibbia dei poveri, perché molti nel 1200 non sapevano leggere né scrivere, però sapevano guardare e leggere un disegno. Questo fa parte della cultura francescana, nell'essere accanto a chi è povero, a chi è ultimo. Un altro aspetto che credo interessante è soffermarsi nei dettagli, ad esempio scorgere il sorriso, scorgere le lacrime dei volti. Il Daverio dice che qui per la prima volta emergono i sentimenti, cioè il realismo giottesco, il realismo della pittura italiana, oppure dettagli particolari come una tovaglia. Penso ad un altro affresco all'ingresso della Basilica Superiore, sulla destra, vedere una tovaglia imbandita fa parte di quella storia di Francesco che va a mangiare a casa di un cavaliere e lì si consuma un'agape fraterna, ed è bello vedere i filamenti dei tessuti, insomma dettagli che una visita forse più veloce non fa scorgere. Un altro aspetto è anche, direi, l'intenzione che ha portato ad affrescare prima la vita di Francesco e poi l'Antico e Nuovo Testamento nella Basilica Superiore, diverso dall'itinerario della Basilica Inferiore, dove nella parete destra e sinistra si confrontano la storia di Francesco e la storia di Gesù, mentre sopra il primo ciclo è dedicato a Francesco e il secondo a Gesù e all'Antico Testamento. Perché? Perché Francesco viene chiamato l'Alter Christus e quindi è il primo santo stigmatizzato. Infatti, scorgendo le immagini degli affreschi, vi accorgerete che dopo le impressioni della Verna, dopo la tappa della Verna dove riceve le stimmate, Francesco compare con le ferite ai mani, ai piedi e al costato. E anche qui un dettaglio vi fa scorgere questi particolari, allargando le immagini. Credo che tutto questo davvero può far vivere un bel momento di cultura, di spiritualità, di immersione nel santo patrono d'Italia. È un modo appunto per studiarlo e prepararsi in qualche modo, no? Una visita che poi più in là può essere fatta proprio di persona. Tra l'altro lei ha fatto anche riferimento al Santuario della Verna, che è un altro posto meraviglioso da andare a scoprire. È una preparazione, diciamo, alla visita ad Assisi, o come pellegrini, quindi spiritualmente preparati, o come turisti. Poi io dico sempre che i pellegrini arrivano ad Assisi e ritornano irrobustiti nella fede a casa, mentre i turisti arrivano così distrattamente e tornano a casa da pellegrini, perché San Francesco, la tappa ad Assisi, città della pace, dove tutto trasuda di pace e di francescanesimo, non lascia indifferenti chiunque viene ad Assisi. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.